Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno e benvenuti, buon inizio di giornata. Oggi non uno ma due esperti, due amici della nostra trasmissione iniziano la giornata con noi. Do subito il benvenuto al professor Claudio Borghi e al professor Dino Vaira. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno. Professor Vaira, buongiorno anche a lei. Allora, arrivano entrambi dall'Università di Bologna, il professor Borghi è ordinario di medicina interna, come anche il professor Dino Vaira. Perché insieme? Perché hanno scritto a quattro mani un libro molto molto utile, una sorta di prontuario, un vademecum ricco di consigli che arrivano naturalmente dai risultati delle ricerche più recenti, che ci aiutano a mantenerci in salute o a recuperare il nostro benessere. Professor Borghi. Sì, per la verità la finalità è proprio questa, cercare di semplificare una serie di concetti che sono direttamente collegati con il nostro benessere e cercare di spacchettare un pochino la medicina da quella strano alone in cui soltanto pochi intimi possano realmente capire quello che avviene. Allora ci siamo guardati un giorno insieme a Dino e abbiamo detto: fondamentalmente noi facciamo un mestiere meraviglioso, ma ci farebbe piacere comunicare anche agli altri quanto questo mestiere, questa professione sia stata straordinario, attraverso un aumento della comprensione reciproca del linguaggio con il quale ci parliamo. Per cui sostanzialmente questo libro è quello, è una sorta di vademecum, ma fatto anche per traslare un concetto da chi il lavoro lo fa a chi dovrebbe averne i benefici. Insomma, in questo libro troviamo e possiamo acquisire tutto quello che c'è da sapere per garantirsi una salute di ferro. Professor Vaira, attraverso sette semplici passaggi, sono in realtà sette pilastri, così si intitola il vostro libro, i sette pilastri del benessere. Perché sette? Quali sono questi sette? In realtà sono veramente i sette capisaldi della salute. Come diceva il grande professor Borghi, l'ottica era proprio di dare un antidoto, se mi permette Nicoletta, alle fake news. Bravo. Questa è la nostra ambizione. Allora, e avete fatto centro. Intanto raccontateceli questi sette pilastri, perché io vorrei che voi stamattina ci aiutaste a portare a casa qualche cosa. Sono sette. Il primo pilastro è l'alimentazione, poi viene la digestione, colesterolo e trigliceridi, cuore, sangue, pressione, sistema immunologico e microbiota. Voilà, abbiamo fatto centro. Professor Borghi, io parto da lei. Certo. Che cosa ci portiamo a casa del vostro libro, proprio in sintesi del primo, riguardo al primo pilastro? Di alimentazione ne parliamo sempre, anche qua a Radio 24, la bufala in tavola, ma qual è il messaggio di oggi? Il messaggio sostanziale è quello di portarsi a casa qualche informazione utile e che non sia eccessivamente restrittiva, come spesso avviene quando si parla di alimentazione, vengono sempre proposte delle restrizioni. Noi abbiamo cercato invece di identificare quali sono quei comportamenti che possano avere un significato virtuoso senza togliere significato e senza togliere il piacere all'alimentazione. Certamente non ci siamo spostati molto dai canoni tradizionali, perché quelli sono, che sono quelli che sono riconducibili vagamente in senso lato alla dieta mediterranea, quindi il pesce, quindi la verdura, la frutta, i cibi integrali e tutta un'altra serie di elementi che possono avere significato anche nei confronti degli altri sistemi. Ma quello che per noi era importante era cercare di concentrare l'attenzione su quelle informazioni che dal punto di vista alimentare hanno sicuramente una serie di vantaggi senza deprimere l'umore dei nostri pazienti e senza risultare eccessivamente coercitive, come spesso avviene quando si parla di alimentazione e dieta. Professor Vaira, a lei è toccata la digestione, tocca la digestione, ma nell'alimentazione, venendo da Bologna, avete inserito, mi raccomando, anche il tortellino, Ma sta scherzando, le lasagne e le tagliatelle, certo. Di Dio. Ah, ecco. Infatti non abbiamo dato nessuna limitazione a questi tre caposaldi e, se mi permette, non rinnego mai le mie origini, anche le orecchiette pugliesi. E certo, con le cime di rapa. Assolutamente tagliatelle, orecchiette, tortellini e lasagne, specialmente in questo periodo, già siamo tristi per fatti nostri, ci manca solo questo. Ecco. Se fosse possibile attutire l'impatto del cibi con bevande gassate, e questo sì, se fosse possibile, questa sarebbe una cosa santa e sacra. Professor Vaira, lo stress impatta anche sulla nostra digestione, ha un consiglio da darci, dato che uno dei 7 pilastri riguarda proprio la digestione? Sì, lo stress, l'abbiamo tante volte detto con lei, Nicoletta, è veramente importantissimo, e questo periodo in maniera particolare, perché veramente siamo tutti costretti come dei leoni in gabbia, quindi almeno tentare disperatamente di fare questa passeggiata che ci permettono nei parchi pubblici. Professor Borghi, se ne avvantaggia anche il cuore sicuramente, certo, di una buona passeggiata, a cui voi dedicate naturalmente un capitolo, insieme al sangue, alla pressione, al colesterolo e ai trigliceridi, temi che, di cui abbiamo parlato tante volte anche nelle nostre chiacchierate radiofoniche. Professore. Sì, abbiamo cercato di inquadrarle, diciamo, in una logica più generale, dando a ciascuno di questi fattori che sono indispensabili per la nostra salute non solo il significato che meritano, ma anche in un tentativo relativamente semplice di spiegare quali siano i meccanismi che li governano e soprattutto in che modo eventualmente noi possiamo sviluppare un'alterazione che riguarda questi sistemi, che poi possa tradursi in un quadro di malattia. Sostanzialmente il libro non entra molto nel dettaglio rispetto agli aspetti di tipo tecnico, ma al tempo stesso comunque propone un'interpretazione, quella che noi diciamo meccanicistica, ossia di un meccanismo che sta alle spalle di qualcosa e che può giustificare non solo la potenzialità di quel fattore di rischio di determinare malattia, ma soprattutto può sostenere in maniera vigorosa i consigli che noi diamo in termini di prevenzione. Perché fare cosa? Perché fare cosa? Poi nel libro voi descrivete anche i primi sintomi che dobbiamo imparare a conoscere, sintomi dei nostri eventuali malessere, soprattutto suggerite come bisogna comportarsi per cercare di evitarli. Professor Vaira, abbiamo parlato tante volte anche soprattutto in questo periodo, dell'importanza di mantenere, di aiutare il nostro sistema immunitario a fare il suo lavoro. Al sistema immunitario avete dedicato naturalmente un capitolo, è uno dei 7 pilastri. Un consiglio da portarci a casa di primo mattino? Probiotici è il futuro, possibilmente una parola, probiotici, fermenti. Quindi possibilmente bifidobatteri e lattobacilli sono il futuro, e in assoluto quelli che ci danno una mano per il nostro microbioma, quindi per l'intestino, che noi ricordiamo e noi ne abbiamo discusso tante volte, è veramente il secondo cervello. Probiotici a cicli stagionali, quindi i cambi di stagione, l'escursione termica, cara Nicoletta, purtroppo come le benzane sono saltate le stagioni, quindi non sappiamo che succede ad aprile, non sappiamo cosa succede a marzo o a giugno, e quindi l'escursione termica che deve guidare noi e i nostri pazienti. Una delle cose che abbiamo cercato di mettere in quel libro, e credo che di questo entrambi possiamo esserne orgogliosi, è l'evoluzione moderna del concetto della medicina, per cui il meccanismo che è responsabile di una certa cosa non necessariamente sta nell'organo bersaglio nel quale poi quella determinata malattia o quella determinata disfunzione si manifesterà. Noi per molto tempo abbiamo immaginato una medicina d'organo, per cui ciò che avveniva nel fegato veniva generato nel fegato, per intenderci, o ciò che avveniva nel cuore veniva generato nel cuore. Oggi questo è vero solo parzialmente, ci sono dei meccanismi a distanza, una sorta di droni che partono da basi lontane che però alla fine ricadono su questi organi, e quelli sono i meccanismi che noi dobbiamo intercettare in maniera estremamente precoce, perché quei droni sono la fase iniziale di una guerra che si potrebbe scatenare e che noi vogliamo interrompere. Quindi la finalità del libro è soprattutto questo: aumentare le barriere mentali e comportamentali dei nostri lettori. Professor Borghi, avete scritto naturalmente anche un appendice che avete dedicato al Covid, al concetto di salute. Il titolo è siamo all'inizio di una nuova era? Lo giro a lei questa domanda, professore. Sì, probabilmente sì, perché ciò che è successo nell'ambito del Covid era una cosa che fondamentalmente nessuno di noi aveva avuto modo di affrontare con queste caratteristiche, per cui ovviamente abbiamo dovuto sviluppare nuovi comportamenti, abbiamo dovuto riprendere abitudini che forse erano abitudini del passato, che erano state tipiche di pandemie delle quali avevamo sentito descrivere soltanto in maniera storica, ma soprattutto c'è stata una riconversione importante delle abitudini della società e anche del modo di lavorare della medicina, e quindi fondamentalmente la società dal punto di vista individuale e la pratica medica nel suo insieme, diciamo il sistema sanitario a 360 gradi, usciranno sostanzialmente diversi da questa pandemia, e quindi l'inizio di una nuova era, nel senso che molto probabilmente noi ci abitueremo ad affrontare il futuro della nostra società prestando attenzione a una serie di aspetti, a una serie di particolari che fino a oggi si ritenevano assolutamente privi di significato. Allora, grazie al professor Borghi, grazie al professor Vaira per essere stati con noi. 7 pilastri del benessere, tra l'altro sono in edicola con Il Sole fino al 17 dicembre. C'è Pietro Lacorte in regia con noi alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza e in redazione. Allora vi saluto tutti, grazie ai prof, alla prossima. Noi ci sentiamo come sempre dopo il GR delle 12 per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca. Buonissima giornata, stiamo bene.